Concavo è ciò che si presenta a cavo all'osservatore e convesso è ciò che si presenta curvo. La valva della conchiglia aperta è concava, se la rovesci è convessa. La percezione quotidiana del mondo ci riserva spesso questo tipo di esperienza. La ciotola, il cucchiaio, il fregio di un mobile, la cupola di una chiesa, la cassa di un mandolino, la pasta che sarà fumante nel piatto. Tutte cose che meritano la nostra attenzione per la funzione che svolgono, se non che a questo mondo di insoddisfatti compare sempre qualcuno che guarda la stessa cosa che guardavamo noi e così improvvisamente, no? Vede quello che noi non vedevamo. Per esempio, capita a chi guarda alla forma e non alla funzione. Per esempio, capitano gli psicoanalisti che, guardando alla forma, le attribuiscono un significato cui nessuno di noi aveva mai pensato. E da allora, da quel momento in poi, ahi noi, eccoci provvisti di un nuovo paio di occhiali con i quali vedere il mondo. E guai a chi non li porta. Debbo confessare di essere giunto fino a poco fa, nell'accidentato percorso della mia vita, senza averci un'idea, neppure un'idea di quali tesori nascondesse la sociobiologia del sesso, sottotitolo Fondamenti di antropoginecologia, opera fondamentale del tirolese F.A. come Felice Accame, ma non è lui, F.A. Tabler-Rader, edita quest'opera da Springer a New York nel 1977. Ebbene, il tesoro più prezioso in essa contenuto, miracolo della paziente indagine scientifica, è costituito dalle stupefacenti davvero rivelazioni sul modo in cui viene inserito il nuovo rotolo di carta igienica in sostituzione del vecchio, ormai presumibilmente estinto. Da dati incontrovertibili, sembrerebbe doversi concludere che le femmine, nell'inserire i rotoli di carta igienica nell'apposita struttura di supporto, facciano scorrere la carta lungo la parete, mentre i maschi, posti di fronte al medesimo compito, farebbero scorrere la medesima carta in avanti. Io, come ho letto la notizia prima di rendermi conto di quanto la tecnologia sia ostile alla scienza pura, come ho letto la notizia sono corso in bagno, eh sì, ricordandomi che proprio il giorno prima avevo cambiato il rotolo di carta igienica, la carta, ho controllato, la carta fedele alla scoperta di Tabler-Rader pendeva in avanti. L'avevo cambiata io, pendeva in avanti. Da allora, a qualcosa cui di bagno in bagno non avevo mai concesso uno sguardo, da allora non ho smesso di osservare e di raccogliere le relative testimonianze. Non c'è famiglia a cui io abbia risparmiato la domanda fatidica: chi è stato a mettere il rotolo di carta igienica? E non c'è stanza da bagno in cui io abbia lesinato di verificare come stavano le cose. Di mezzo non vi sarà sfuggito, ne va tutta, non vi sarà sfuggito, ne va tutta una concezione del mondo. Infatti, l'acuto Tabler-Rader non si è limitato a rilevare la cosa ed a situarla fra gli usi e i costumi di quella sezione di umanità che ritiene opportuno fare ricorso alla carta igienica, no? Ma psicanalisi alla mano ha voluto spiegare le due alternative in cui l'evento può avvenire. Allora, la carta in avanti sarebbe correlata alla simbologia del convesso e la carta che scende lungo la parete sarebbe correlata per opposizione alla simbologia del concavo. Ecco perché quest'ultima soluzione spetterebbe di diritto alle femmine e l'altra ai maschi, tutti quanti inconsapevolmente proni al cospetto delle pulsioni ancestrali che li muoverebbero come burattini financo quando si predispongono la carta igienica. Pensate al progresso. Non ci fosse stata la psicanalisi, avremmo pencolato di generazione in generazione in proposito fra caso e necessità. E tuttavia, malauguratamente, come dicevo, la tecnologia è ostile alla scienza pura. Qualcuno ce l'ha con Tabula Radar fino al punto di seppellire lui e la sua ricerca infirmandone i valori statistici fondamentali e presumibilmente ostacolandogli la strada per il meritato premio Nobel. Mi è toccato, qualche giorno dopo, di osservare il rotolo di carta igienica con la consapevolezza di quel, una volta tanto, per la prima volta, con la consapevolezza di quel che stavo per fare nel momento in cui volevo affidare questo rotolo all'apposito supporto cilindrico. È in quel momento che mi sono dolorosamente accorto che il rotolo moderno è compatto, con il primo lembo rigorosamente incollato sugli altri, tanto da negare ogni certezza riguardo al senso che prenderà la carta una volta che sia stata strappata nel punto in cui è incollata. A meno di non prefigurare dunque persone che scollano prima di inserire, il risultato, se Dio vuole, più che dettato dal sesso e dalle sue esigenze nascoste, sarà opportuno considerarlo frutto della casualità e della disattenzione. Per quanto possa dispiacere agli psicanalisti, ci si dovrebbe anche sentir meglio.